Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci qua nuovamente in diretta con il Breakfast Club. Dopo il GR di Radio Popolare parliamo di un last minute che è più spazio di approfondimento, in quanto l'impegno di questa rassegna prenderà il weekend dal 25 al 28 luglio. Porretta Terme, siamo alla 36esima edizione del Porretta Soul Festival. Parliamo di soul allora, perché è veramente un'accezione estesa, come un universo, una galassia che va dal Philly Soul fino al Southern Soul, un viaggio attraverso territorialità, tradizione, gusto, musica, origine e allo stesso tempo interpretazione contemporanea. Per quanto riguarda Porretta, è un Southern Soul, è il soul di Otis Redding, di Wilson Pickett, il soul della Stax. Certo che di accezioni di soul ve ne sono diverse: l'urban soul, il soul dell'Atlantic, il soul della Motown, il soul di Philadelphia. Sono diverse sensazioni musicali. Per quanto riguarda Porretta, con uno sguardo sia al passato quanto che al presente, ci sarà motivo di ascolto legato a quel soul della Chess Record, della Stax, come ho già citato, da Isaac Hayes fino ad arrivare a musicisti emblema del Porretta, Rufus Thomas, appunto. Quindi delle sonorità che ho voluto specificare, ma che probabilmente voi ben conoscete. E dal 25 al 28 luglio, la 36esima edizione su Porretta Terme, e per l'occasione la località dell'Appennino bolognese, che grazie a una serie di spettacolari murales tematici porta anche sulla facciata delle case i segni del destino di capitale europea del rhythm blues. Torna a essere la degna controparte di Memphis, per convenzione culla dell'intera musica root blues, soul e rock del Nord America, così viene descritta e definita, in intersezione artistica, come ho detto, con grafica murales, per avere un palcoscenico arredato ancor più a tema con il Porretta Soul Street Art, musica, arte e graffiti, una nuova serie di murales, come vi ho detto in precedenza, sulla storia della musica soul, intesa in questa accezione, preciso sempre, del festival. Metto un po' di musica allora, soul power, loro sono Booker T and the MGs, dopodiché avremo l'approfondimento che ha curato Anna Cesari con il direttore artistico Graziano Ulliani. A tra poco! Festival che non doveva nascere, nel senso che quando feci la prima edizione doveva essere un una tantum, perché avevo avuto l'occasione di convincere Arbor a prendere Solomon Burke e successivamente Rufus Thomas e Memphis Horn, per cui i viaggi erano pagati e riuscii a organizzare questa prima edizione. Poi ci ho preso gusto, nel senso che era nata l'associazione Street Soul Music per promuovere il rhythm blues in Italia, complice il primo disco di Zucchero Blues dove gli proposi Memphis Horns, per cui cui nacque questo sodalizio con Memphis, e negli anni siamo andati avanti. Fortunatamente non era il mio lavoro, perché se l'avessi fatto di professione l'ho già fallito 20 volte, perché andavo alla caccia di nomi che piacevano a me e di cui me ne fregava assolutamente di cosa pensasse il pubblico. Però guarda caso, il pubblico ha cominciato ad arrivare a Porretta perché ascoltava cose che da altre parti non si ascoltavano. Questo, la genesi è questa. Poi, andando avanti negli anni, sono arrivati ospiti illustri come Wilson Pickett, Mavis Staples e tantissimi altri, quindi un po' tutto il mondo della musica soul trovava a Porretta il successo che aveva avuto negli anni 60, e quindi si è creato un po' il passaparola. In effetti la gente arriva un po' da tutto il mondo, dal Giappone e dall'Australia, per vedere personaggi non commerciali. Pensiamo a James Carr o, che so io, Oscar Tooney Jr., personaggi che soltanto il pubblico di appassionati conosce, ed è questo un po' il segreto di Porretta. Quest'anno l'edizione invece che artisti nuovi vede, e quali invece quelli che sono di casa? Ci sono tanti artisti nuovi, a cominciare dalla band che è la Memphis Music Hall of Fame, ovvero la band che accompagna gli artisti nel galà che fanno una volta all'anno e che promuove il Memphis Sound nel mondo. Hanno premiato da Keith Richards a tantissimi altri personaggi. Con la Memphis Music Hall of Fame arriva Wendy Motel, che abbiamo già avuto ospite qua, che ha avuto un gran successo recentemente in America con l'edizione 2021 di The Voice. Personaggi nuovi, nuova generazione del soul come Gerald Richardson, abbiamo Jonathan Ellison, abbiamo Jerome Kaism, poi Alabama Mike, grande personaggio, Johnny Rawls, fa parte della vecchia guardia ma non era mai venuto a Porretta. Poi abbiamo alcune chicche che interessano anche le nuove generazioni, come il Andrew Strong, il cantante dei Commitments, visto nel film di Alan Parker, con alcuni musicisti che hanno fatto parte della colonna sonora originale. Poi abbiamo la Bluesmobile originale, abbiamo un ingegnere svizzero che lavora al CERN di Ginevra, che arriverà a Porretta e starà lì tutta la settimana con la Bluesmobile originale dei Blues Brothers, per cui chi vorrà fare un giro glielo facciamo fare. L'artista che sta nel manifesto? È la Wendy Moten, questa è una delle più belle voci che attualmente gli Stati Uniti possono avere. Invito tutti ad andare a vedere l'edizione di The Voice 2021, dove Wendy Moten canta un brano di Aretha Franklin e stupisce i giudici. I giudici sono i più acclamati artisti, da Ariana Grande ad altri, John Legend, eccetera, che impazziscono per lei. Altre due parole su come si svolgerà il festival, da quando a quando e cosa offrono queste giornate? Noi abbiamo quattro anteprime gratuite, una il 21 di domenica 21 luglio in piazza Lucio Dalla Bologna con la Sweet Earth, gruppo australiano di 30 ragazze. Poi andremo a Vergato lunedì 22 a Vergato, martedì 23 a Tolè, sempre con questo gruppo, il 24 a Camugnano, e poi dal 25 al 28 luglio concerti gratuiti a Porretta dalle 11 del mattino alle 8 di sera, e poi quelli a pagamento dalle 8 all'1 di notte per le 4 giornate. Avremo anche il gospel la domenica mattina nel piazzale della chiesa dei Cappuccini, ma sono tante le manifestazioni collaterali, dallo street food ai mercatini di artigianato toscano, musica per le strade, quindi abbiamo veramente un po' di tutto. Midnight hour. musica blues mobile, no? Quindi Elwood Blues che va a prendere Jolly e Jake al carcere con una macchina della polizia che l'ha presa appunto a una asta di svendita. E con cosa vende e scambia invece la blues mobile avuta in precedenza dai Blues Brothers? Me lo ricordate? Con un microfono. La mitica scena del salto sul ponte elevatoio e dopo la delusione di Joey e Jake l'affermazione invece rimetti a posto l'accendino, perché dallo così dispiacere di non avere più la macchina, la caddy in precedenza tenuta dai Blues Brothers, così per dispetto butta fuori l'accendisigarette dal finestrino, poi invece si ravvede dopo la prestante prova della Blues Mobile. You know how to shake a butter boy. I got to see for myself. Film che ha cambiato la vita a tanti, me compreso, The Blues Brothers. Allora, Porretta Soul Festival, 4 anteprime, si parte da Bologna al 21 e poi ovviamente per tutto il programma ci sarà modo di poterlo consultare più comodamente, www.porrettasoulfestival.it, e ufficialmente dal 25 al 28 luglio 2024. Grazie ad Anna Cesari, grazie a Graziano Ugliani, direttore artistico della Kermesse, ideatore, e poi ricordo anche questa particolarità, l'arredamento, chiamiamolo così, del Porret Soul Street Art, con murales e una serie di immagini sulla storia della musica soul e del festival. A tra poco con il Move to Groove del martedì dedicato alla formazione. Look at sis, she's in.